però volevo fare solo una piccola considerazione. Dal Milan e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi che amici in ascolto, il buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi in Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Purtroppo questa notizia, però vabbè, io credo che dopo tanti chilometri dovevo cambiare la gomma. Adesso cambio la gomma e spero di tornare a, soprattutto bene. Sì, mi dispiace, questo no, è un infortunio che può capitare a chiunque. L'importante è guarire bene e tornare insieme ai miei compagni, che è la cosa che in questo momento voglio di più. Ripeto, dopo tanti chilometri dovevo cambiare la gomma, la cambio e dopo si riparte. Manca tan poco per vincere Scudetto, creo que esta partita es un derby muy importante y continuamos así. Manca un punto y debíamos continuar, allenarse bien y jugar la partita con Palermo y después de quello festejar como Dios manda. Gli arbitri sono così, è normale che mi arrabbi. Non è normale che io prendo ogni volta 100 falli e non dice e non fischia, anzi mi fischia contro, e poi appena dico una parola mi ammonisce. Non è possibile, cioè, mi hanno tirato via una giornata di squalifica, perché forse, non so, però penso che abbiano capito che alla fine non c'entravo niente, però così non si può giocare, perché io non posso ogni volta che dico mezza parola ammonito e gli altri mi danno 1000 calci e non dice niente. Non è possibile. Rava Nossi in redazione e Roberto Scaltritti in regia. 800240024 è il vostro numero verde. Buongiorno e buona settimana a tutti, ma soprattutto ad Alberto Costa, principe degli inviati del Corriere della Sera. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno. Balotelli dovrebbe anche imparare a stare zitto, ha giocato ieri una partita da sberle, secondo me, si è beccato una munizione giusta e poi l'ha risolta con un tiro da fermo da 35 metri ribattuto in tapin da Pazzini. Non è stata la sua serata migliore, ma è magnifica e crudele almeno la corsa verso il terzo posto, perché tutto il resto è deciso. Pronto, mi senti? Sì che ti sento. Ah, ecco. Sì, no, beh, Balotelli, devo dire la verità, personalmente ieri pensavo questo, che se fossi io al suo posto avrei già mandato gli arbitri a quel paese in maniera più plateale di lui e molte volte. In effetti i difensori nei suoi confronti usano mezzi leciti, ma spesso anche meno leciti. Il problema è che se uno decide di fare il calciatore professionista tesserato per una squadra di alto livello, una squadra che ha sempre curato, comunque ha tenuto sempre molto all'immagine, non può fare come Balotelli, perché è vero che lui dice si apro la bocca, ma lui ha accompagnato anche la sua protesta con un gesto plateale, sì, certo, la cui certo traduzione non posso effettuare qua in diretta, ma era chiaramente un mandare a quel paese l'arbitro. Quindi lui deve capire che se vuol fare il calciatore deve un attimo imparare a gestirsi anche in presenza. Capisco il suo risentimento, ma deve imparare a controllarsi. Sì, certo, ti ricordi perfettamente Maradona, no? Il suo comportamento, un sacco di bastonate, esatto, si alzava, stringeva esatto la mano e andava via. Totti è uno che non ne ha prese meno di Balotelli, ogni tanto esatto fa il bullo e si fa giustizia da solo, però a queste cose se vuoi fare il esatto l'attaccante al top ti devi abituare, perché altrimenti è una munizione a partita. Esattamente, deve far parte del tuo repertorio il controllo dei nervi, esattamente come il potente calcio su punizione che lui, diciamo, un'arma che il Milan da quando è arrivato Balotelli ha in più, perché prima nessuno sapeva calciare le punizioni del Milan. Però devi imparare che nel tuo repertorio devi aggiungere questa capacità di autocontrollo, altrimenti non sarai mai un fuoriclasse, a mio modo di vedere. Sì. Poi torniamo al Milan con un altro nome invece, che immagino già che tu sappia chi è, però volevo chiederti, la Juventus ieri ha vinto lo scudetto, perché l'ha vinto, ha rimandato la festa, come abbiamo sentito Vidal, per farla come Dio comanda e non con un tempo che sembra ottobre. Lo ha fatto nel modo più crudele, cioè da grande squadra, l'unica che secondo me del campionato italiano, battendo Torino nel modo più crudele, cioè sparandogli addosso quando era già pronto il trattato di tregua 1-0-0, che alla fine avrebbe fatto comodo a tutte e due. Sì, guarda, esattamente se ne parlava ieri dopo la partita a cui ho assistito del Milan in sala stampa a San Siro con dei colleghi, era lo stesso concetto che ho espresso io. Le grandi squadre sono queste, non c'è niente da dire, sono quelle che anche quando magari ti sembrano non in giornata o comunque sonnecchianti o comunque inclini al trattato di tregua, come dicevi tu, sono quelle che quando meno te lo aspetti ti impallinano e hai voglia di dire ah, ma questi hanno rubato. Queste sono le grandi squadre. Io che per questione di età ho seguito tanti Milan vincenti, spettacolari e meno spettacolari, però il Milan ha vinto tante, il grande Milan ha vinto anche tante partite così, sonnecchiando e poi colpendo alla fine, quindi non c'è nulla di casuale a mio modo di vedere nella vittoria di ieri della Juve nel derby. Sì. È una squadra cinica, concreta, che sfrutta le occasioni che ha, quindi è una grande squadra. Parlavi di un Milan che segnava, che colpiva gli avversari a freddo, era quello di Capello più che altro. Esatto, sì, c'è stato un anno, quello in cui non credo che segnava Massaro un gol, sì, o Simone un gol, nessuno. A volte gli avversari uscivano dal campo inviperiti, inferociti, sì. Ma alla fine non si facevano sconti a nessuno. Esatto. Senti, Capello passò dalle scrivanie della Fininvest a qualche microfono di Mediaset per fare il commentatore alla panchina. Un altro che non ha mai fatto la panchina, se non da giocatore, peraltro arrabbiandosi, è Clarence Seedorf. È lui il futuro del Milan? Perché mi sembra che con Allegri sia finita la storia. Ma dunque, guarda, innanzitutto Capello rispetto a Seedorf comunque aveva avuto esperienza di panchina a livello di squadra primavera. Sì. Quindi già partiva qualcosa, da c'era una posizione di vantaggio, anche se ricordo che all'epoca giocatori solitamente taciturni, perché tra tutte e due non credo che abbiano in due parlato complessivamente negli anni che sono stati al Milan più di mezz'ora, cioè Baresi e Donadoni, si lamentarono pubblicamente, misero in dubbio pubblicamente la scelta di Berlusconi. E quindi Seedorf, stiamo parlando addirittura di uno che non ha mai, appunto, se non da giocatore, occupato alcun tipo di panchina. Ma guarda, il problema è questo, secondo me Berlusconi deve prendere atto di quello che è successo ieri. La curva, comunque San Siro, si è schierata a favore dell'allenatore, di Allegri. Anche Balotelli, perché io sono convinto di una cosa: la gente, i tifosi, quelli che tutte le domeniche vanno allo stadio e quindi vedono domenicalmente la loro squadra con il sole, con il freddo soprattutto in questa stagione, con la pioggia, ha più la percezione della realtà di un presidente che per mesi è stato impegnato in tutt'altre faccende. Soltanto adesso forse può tirare un attimo il fiato, dimenticando la politica o accantonando la politica e occupandosi di calcio. Quindi secondo me Berlusconi deve riflettere su questo, però nulla gli impedisce, lui è il proprietario della squadra, in passato ha avuto intuizioni vincenti, di decidere che l'allenatore della prossima stagione sarà il signor Seedorf. Con quale formula non lo so, vedrà lui, ci sono le deroghe, può essere un allenatore col patentino in campo, eccetera. Però è sbagliato, a mio modo di vedere, il continuo, come dire, la critica continua nei confronti dell'allenatore, perché tutto quello che dice Berlusconi in privato, al bar di Montecitorio, a casa sua a Palazzo Grazioli, ad Arcore, se va in visita nel Padovano in campagna elettorale, dice che è un allenatore del casso, ma l'avevo detto tra persone, tra amici, però tutto si viene a sapere. Per cui lui deve decidere: Allegri non mi va per tanti motivi, lo dica chiaramente. Secondo me il nuovo allenatore sarà Seedorf, sì. a mio modo di vedere rischia di fare meno danni così annunciando anche in anticipo il cambio in panchina che con questo continuo stillicidio di battute alcune di dubbio gusto. Sì, ma anche perché non lo vuole ma non trova il pretesto, Alberto, la verità è questa, non trova il pretesto, non c'è non c'è un pretesto per mandarlo via perché ha lavorato bene per 3 anni e quindi non trova l'appiglio per mandarlo via, non lo vuole più, però è chiaro che è chiaro che la storia è questa. Soprattutto quest'anno lui finge di non capire di avere consegnato all'allenatore una squadra che tutti, ma anche gente all'interno del Milan e di alto livello, era convinta che nel migliore dei casi sarebbe arrivata quinta, se tutto fosse andato bene. Quindi voglio dire, i tifosi questo lo capiscono, l'hanno capito, Allegri pur tra errori, soprattutto all'inizio, ne ha fatti parecchi e anche a mio modo di vedere nelle ultime 3 partite che purtroppo erano quelle decisive, quelle dove l'asticella si è un po' alzata. Però complessivamente ha fatto un mezzo miracolo, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare un Milan in lotta per il terzo posto a quest'ora, a 4 giornate dalla fine. Alberto, ti ringrazio moltissimo. Prego, ti saluto, ciao. E ti abbraccio. Tutti convocati. Amici miei, 800 24 00 24, numero verde, vi vorrei chiedere di fare come ha fatto Mourinho, che ha subito telefonato al suo vecchio capitano, ma come hanno fatto molti giocatori che hanno inviato tweet e messaggi per un grandissimo giocatore del nostro campionato, cioè Savio Zanetti, che ieri si è infortunato. È dura vedere per qualunque appassionato normale, salvo quelli eccessivi e fuori luogo, come è successo ieri a San Siro, è triste vedere una bandiera che esce in barella. Infortunio grave a Savio Zanetti, a quasi 40 anni, rottura del tendine d'Achille. Lui vuole rimettersi in piedi, vuole tornare almeno per una partita. Me lo auguro, glielo auguro, anche se è chiaro che la carriera di questo giocatore, di questo meraviglioso giocatore, è finita. Io spero non in questa maniera traumatica, però insomma bisogna anche guardare in faccia la realtà e non far finta di niente. Quindi io vi chiedo messaggi, sms 349-238-6666 o tweet al nostro contatto Twitter, e poi i migliori li riporteremo anche sul sito di Radio 24, perché vogliamo anche noi, così è vivo e lotto insieme a noi, però infortunio grave per una bandiera dell'Inter e del calcio italiano, pur argentino, Savio Zanetti, ve li chiedo. 800 24 00 24, adesso cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Pino Brescia, Costantino Aosta, Cristian provincia di Novara. Pino, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sente? Sì che la sento. Buongiorno e grazie per essere stato convocato. Sempre. E niente, volevo fargli tanti auguri veramente al capitano, perché li merita dopo tante battaglie. Sì, ecco. e ci aggiungiamo anche noi, e si aggiunge tutto il calcio italiano, tutto il calcio mondiale per Savio Zanetti, no? Sì, e tanti auguri anche alla Juve, perché ha meritato di vincere lo scudetto detto da un interista. Sì, la Juventus finisce questo campionato, festeggerà questo campionato domenica verso le 17 e giocando in casa col Palermo, io prevedo anche un pareggio che potrebbe star bene ad entrambe. Ci rendiamo conto che è stato un campionato contro nessuno, perché al di là del fatto che abbiamo provato a tenerlo vivo per un sacco di motivi nella maniera più anche più bieca possibile, però questo campionato non è mai esistito, non è mai nato. La Juventus non è realmente mai stata in sofferenza, è nettamente la squadra più forte d'Italia, l'unica grande squadra italiana in questo momento. Costantino Aosta. Buongiorno, io volevo fare 2 rapide considerazioni. La prima sul fatto che tutte le partite del campionato italiano noto che iniziano sempre con 3, 4, 5 minuti di ritardo. Sì. Ed è una cosa molto fastidiosa che in Europa non capita, non so se è un tributo agli sponsor. No, anche se anch'io la trovo, sa che anch'io la trovo molto fastidiosa. Trovo molto fastidiose 2 abitudini. La prima è quella di cominciare certe partite e soprattutto su certi campi, perché lei ci avrà fatto caso, non ovunque questo succede, ma per nessuna ragione che non sia quella di mettersi a posto l'acconciatura, la cresta, esatto, il foulard, la bandana, la bandiera, i braccialetti, insomma, io noto che ad esempio a Roma le partite cominciano con un certo ritardo, spesso a San Siro le partite cominciano con un certo ritardo, qualche volta a Torino, certe volte a Napoli. E la trovo una cosa estremamente fastidiosa, sono d'accordo, mai fastidiosa quanto la nostra abitudine esclusiva peraltro di cacciare fuori la palla ogni volta qualcuno cade per terra. Quindi queste sono due cose che mal sopporto insieme a lei. E l'altra cosa è nella stagione di Esamoah, mi sembra di rivedere un po' due africani che ha avuto la Juve, Olise e Appia, che sono arrivati, hanno avuto un inizio di stagione eccezionale. Spero che non sia così per Esamoah, perché gli altri due veramente avevano proseguito veramente piuttosto questo, male. Però questo mi sembra. No, ma guardi, c'è una differenza fondamentale su questo che mi sembra nettamente di un altro livello, e cioè che il suo valore l'abbiamo capito per diversi anni all'Udinese. Sappiamo quanto vale questo giocatore, quindi non mi aspetto grandi cadute di rendimento da parte di Appia. Anzi, dirò di più, io. Sono un grande estimatore di Isla, che in questa stagione è finito ai margini delle rotazioni, vuoi per infortunio, vuoi alla fine per scelte di Conte, eccetera. Lo trovo un altro giocatore di alto livello e credo, resto convinto fin dall'inizio che siano stati due grandi acquisti da parte della Juventus. 800 24 00 24. Allora, già che stiamo parlando di Juventus, vi faccio sentire Conte prima di andare a Venezia. Volevamo vincerla, l'abbiamo fatta noi la partita, complimenti al Torino perché comunque si è opposto in maniera degna, ha tenuto bene il campo, alla fine siamo riusciti a fare gol, sicuramente il gol di Vidal e il gol di Marchisio sono gol pesantissimi perché inutile dire che adesso manca un solo punto per la matematica certezza, poi io penso che sarebbe veramente qualcosa di fantastico, di straordinario, a dimostrazione che questi ragazzi stanno facendo qualcosa di bello. Sì, questo sì, corsa senza rivali, secondo me quella della Juventus nel campionato italiano, meraviglioso invece la lotta per il terzo posto che è ancora tutto da definire. La Fiorentina è più bella, più leggera, più in condizione rispetto al Milan. Milan più forte, più consumato, più profondo, ha muscoli e nervi, ha risorse tecniche più profonde rispetto alla Fiorentina. Credo sarà una corsa fino, e spero sarà una corsa fino all'ultimo respiro, lasciando perdere poi, se volete, l'arbitraggio di ieri sera, quel fallo da cui è partita l'azione del gol di Pazzini, quel rigore che non c'era evidentemente su Balotelli, eccetera, eccetera, eccetera, senza voler vedere grossi disegni dietro di questo. Cristian, provincia di Novara. Sì, buongiorno, grazie per essere convocato. Convocati sempre. Dica. Grazie. Volevo fare una considerazione sul calcio italiano nel rapporto con l'europeo, anche in virtù dell'elezione, diciamo, della nomina a ministro di Bella Idem, che a me è suscita grande ottimismo e speranza. Perché comunque queste nazioni che fino a qualche anno fa erano indietro noi, ma sempre competitive, come la Germania, che è il caso più eclatante, hanno investito sul settore giovanile, cosa che mi sembra qualcuno sta già facendo in Italia. Io sono, diciamo, fiducioso che magari con una politica di investimenti fatta mirata, senza grandi costi per campioni finti o presunti tali, ma con i nostri giovani si possa tornare in auge, anzi si debba, anche se ho letto un'inchiesta fatta qualche giorno fa, l'Italia è l'ultimo paese in Europa per investimento in vivaio. Sì. E quindi volevo capire se, insomma, secondo lei c'è la possibilità che si possa ritornare a credere nei nostri giovani. Ma sono scelte di politica societaria. Molte squadre hanno ricominciato ad investire sul vivaio. È chiaro che i risultati li vedremo. Tra qualche anno, però non dimentichiamo che il nostro calcio ha una politica di gestione dei club molto diversa rispetto a quanto succede all'estero, quindi non so, mi piacerebbe molto dire di sì, però non ne sono così convinto, perché come non abbiamo gli stadi, come non abbiamo più grandi campioni, spesso si preferisce spendere 4 soldi per un giocatore da dare in pasto anche al pueblo, per farlo stare tranquillo, piuttosto che non investire a lungo termine, perché questo è l'investimento che si fa sui giovani. Ivo da Venezia, la prego di attendere un attimo lì in laguna. Abbiamo la borsa, subito dopo arriveremo a parlare con lei. Tutti convocati. Io da Paola Terra. È divertente notare come ognuno di voi legge dietro le mie parole ciò che vuole. E un giorno mi danno dello Juventino, uno dell'Interista, uno del Milanista, come in questo caso, uno come me prostrato intellettualmente al mondo Milan, piuttosto fastidioso, scrive Luca da Vicenza. È divertente capire come abbiate bisogno di qualcuno che per forza si schieri. Io non lo faccio e non mi prostro intellettualmente a nessuno. Ivo, Venezia, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie, grazie a te Ivo, com'è l'acqua a Venezia? Boh, un po' meno gelida di ieri. Un po' meno alta? No, non molto. Speriamo che regga. È alta per l'Inter l'acqua in questo periodo qua. E io volevo partire da qua perché volevo dare il mio pensiero a Xavier Zanetti, mio capitano, essendo io interista, e credo abbia, come hai detto tu prima, finito la sua carriera nel modo più triste, in una stagione triste, perché forse meritava, anzi senza forse, meritava di chiuderla in tutt'altro modo. E questo è sicuro. Questo è sicuro. Però andrà così, come sono sicuro che tornerà sul campo, fosse solo per dare l'ultimo calcio e salutare. Beh, certo, ma questo è il minimo, questo è il minimo. Io non, in tutta onestà, non mi aspetto più di vedere Zanetti giocatore per una stagione, però mi aspetto di... No, ma neanche, guarda, da interista io dico soltanto un grazie all'uomo, perché ha dato allo sport il vero modo e la vera dimensione di essere sport. Poi un professionista vero, cioè un professionista che non sarebbe arrivato a 39 anni a spaccarsi un tendine d'Achille e a dover dire per questo addio a una carriera che sennò sarebbe proseguita. Quindi questo vale l'esempio, vale per tutto quanto, no? più di un sacco di parole. Quindi io mi alzo in piedi davanti a Xavier Zanetti, che è vivo e lotto insieme a noi, che magari diventerà l'allenatore dell'Inter, che magari diventerà un grande allenatore, o magari l'allenatore dell'Argentina, a me piacerebbe. Però certamente è stato un giocatore straordinario, è stato un giocatore straordinario proprio per l'esempio che ha dato. Grazie Ivo da Venezia. Per noi un altro brutto colpo, soprattutto perché il valore del capitano è, anche in un momento così difficile, per noi è incredibile. Ma sicuramente l'infortunio oggi di Javier non ci voleva, è difficile anche per me commentare una situazione così. Questa era Stramazzoni. Naturalmente all'Inter stanno cercando, oltre la talpa che abita nel sottosuolo, adesso anche il gatto nero, che deve aver attraversato un miliardo di volte i vialetti di Appiano, perché questa sfiga non è letteralmente possibile. Vi invito a mandare messaggi per il capitano 349-238-6666, li pubblicheremo sul nostro sito e vedremo anche di farglieli avere personalmente. Intanto saluto un grande chef, un grandissimo chef, un grandissimo, ancora più grande tifoso dell'Inter, Davide Oldani, che da un po' non sentiamo. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Mi spiace chiamarti in questo giorno in cui si ammaina la bandiera del capitano, però tocca anche ai grandi tifosi, no? In questi giorni. No, non è proprio ammainata. Attenzione che Beckham 2-3 anni fa ha fatto la stessa cosa e ha ripreso e gioca nel Paris Saint Germain, quindi con qualche anno in meno. Dai, con quel allenamento sicuramente si riprende. Non è assolutamente però, così grave come state decantando, come state dicendo voi. Sai Davide, rottura del tendine d'Achille, hai anche giocato a pallone a buon livello, è un infortunio molto grave e ha quasi 40 anni, però non può essere anche un segno del destino che dice ricominciamo da zero. No, ma avremmo secondo me dovuto ricominciare circa 2 anni fa, dopo la Champions di Madrid, da zero, però abbiamo tardato un paio d'anni, va bene, meglio tardi che mai. il problema è che secondo me la pattuglia degli argentini, insomma, ha fatto il suo tempo. Ci metto anche Cambiasso, ci metto anche Milito, ci metto tutti quelli che hanno fatto grandissima l'Inter e che comunque rappresentano, come il Milan insegna d'altra parte, un gruppo di pressione importante all'interno dello spogliatoio e nei confronti dell'opinione pubblica. La mia idea è che l'Inter debba ricominciare come ha fatto il Milan, da nessun gruppo, capisci? No, ma difatti Milan devo dire, se devo dire per la società, devo dire che è un'ottima organizzazione. Magari anche dai competitor più importanti bisogna a volte prendere degli spunti. Uno spunto che si potrebbe prendere è quello appunto di vedere un po' la parte gestionale. Di rivedere la parte gestionale? Sì, perché al Milan alla fine hanno fatto, io mi spiace dire questa cosa, però hanno allontanato gente come Costa Curta, come Maldini, quindi queste cose fanno pensare molto. Sì, hanno allontanato quelli che non erano particolarmente paraculi, anche Seedorf non lo è mai stato. No, io non userei queste parole, direi, non lo so, sono decisioni dell'azienda Milan, però hanno fatto vedere che c'è personaggi così importanti che io stimo oltretutto tanto, molto, sono stati allontanati. Quindi quando le decisioni aziendali sono prese con criteri giusti, bisogna rinunciare anche a determinate cose, a determinate persone. Senti, stramaccioni o non stramaccioni? Qual è il tuo punto di vista? Ma Stramaccioni è un giovane che si farà sicuramente, ne sta pagando dazio del fatto che lui sia giovane e abbia poca esperienza. Credo che se mantiene un po' il carattere che ha, deve fare un po' pugno duro naturalmente tra lo spogliatoio e la parte gestionale, secondo me può avere uno sbocco futuro, però è molto duro, è molto difficile. Grazie Davide, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. Ti aspetto presto, anche per parlare dei tuoi libri che ne hai scritti, ormai ho perso il conto. Sulla cucina. Abbiamo un bel possesso palla, è normale quando ce l'hai un centrocampo così forte con Aquilani, Pizarro e Borja Valero, normale che ce l'hai un possesso palla più di altra squadra. Poi abbiamo segnato, primo gol, molto importante, abbiamo sbloccato la partita e poi tutto è arrivato più facile. No, ma chiaramente per me la storia era chiusa. Io, chi è venuto a salutarmi, l'ho salutato con affetto, io l'ho già detto, per me io non c'ho niente contro la Fiorentina, contro i giocatori della Fiorentina, assolutamente. Erano quel mascalzoncello, la faccia da schiaffi di Ljajic, che era giocato una partita fantastica contro degli Orossi e contro la Sampdoria, e degli Orossi che, insomma, forse un po' si arrampica sugli specchi, questo non lo so. Però Ljajic è stato uno dei migliori giocatori del campionato italiano nel girone di ritorno. Parlano le prestazioni e parla il numero dei gol, se non sbaglio 7 nel girone di ritorno. Nulla a che vedere con i 15 di Pazzini, che sono un'impresa pazzesca. Poi datemi del prostrato a chi cavolo volete, io conto i numeri. Pazzini 15 gol in questo campionato, giocando praticamente uno ogni 100 minuti, ditemi voi se è poco. Antonio Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Carlo, per essere brevi, sono Juventino Marcio, ho 60 anni e faccio tipo per Zanetti, affinché possa veramente ritornare a trattare i cavi di gioco, perché un uomo così rappresenta veramente il calcio, la parte pulita del calcio che vorremmo tutti che fossimo, tutti guardi. Del Piero, i Rivera, Cirea, Zanetti, sono persone prima e poi professionisti veraci. In bocca al lupo veramente. Bravo Antonio. E complimenti a voi per la trasmissione. Grazie Antonio, più che per i complimenti alla trasmissione, per quanto ha detto prima, che io condivido. El Pupi è stato ed è un simbolo del calcio mondiale, io credo. Ma ripeto, Non vuole essere un'elegia funebre a Javier Zanetti. Io credo che la sua carriera, ripeto, sia finita. Non come sarebbe stato auspicabile, però l'età mi porta a pensare questo. Immagino una bella festa di addio di Zanetti, ora che quando sarà in grado di affrontare questa danza. Maurizio da Alessandria. Sì, buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire riguardo il derby di Torino di ieri, sì. Io da sponda Granata. Comunque me lo immaginavo che andava a finire così come al solito, perché ho notato tre, ma è normale, ma no, perché a parte che c'è 40 punti di differenza non se ne discute, sì. Però tre case su Gatti, una cinta in aria, detto da Cavalier, rigore non fischiato, intervento a piede a martello di, del signor Pirlo su Bianchi, ma ancora sanzionato, e quello lì su Bonucci, Bonucci su Jonatas. Sì, su Jonatas, quello è una roba veramente scandalosa. Ma a parte quello... Era rigore. Era rigore. Possibile. No, ma era possibile. Ma sa, ma tanto poi se qui ma poi non è... Comunque un'altra cosa, la colpa probabilmente la do alla società, perché questo è arrivato. Facciamo così, facciamo cosà, ma alla fine... Non puoi far giocare Bianchi a 60 metri dalla porta, uno lui è forte di testa. Abbiamo visto un giocatore spuffato, correre avanti e indietro, ma non poteva, non è il suo gioco. Io vedo il livello delle tue squadre tipo i due Manchester, il City e lo United. Se non arriva uno tipo col City... Noi non potremmo mai venire fuori, perché queste ce ne hanno fatte tutte, da Ciminelle, compagnia bella. Ci hanno cercato di farci sparire, non siamo mai spariti. Siamo duri a morire. Però Maurizio, non vorrei dire... Però secondo me la stagione del Torino, Maurizio, ora capisco le ferite nel derby che fanno ancora più male perché sono pallotte la regata nel finale. Quelle del Napoli, cioè avevamo noi quelle, lo svizzero del Napoli. Non è ancora stato capace a mettere una fare. Ieri abbiamo preso un gol da 40, da 30 metri, cioè non puoi anche allenatore... con Napoli raddrizzato, non ha preso le contromisure, abbiamo giocato col centrocampo a due. Sì, però Maurizio, le chiedo una cosa, se a inizio stagione gli avessero detto a quattro giornate dalla fine sei lì, lei non avrebbe sottoscritto? No, io pensavo già di essere giù prima. E allora mi sembra che il Toro abbia fatto il suo. No, guardi, il problema non è il Toro, il problema è il presidente. È un'altra cosa, è venuto a sprombattuto quando ci ha rilevato che ha fatto qui le... ma Maurizio, alla fine giocatore di stato di livello superiore. Sono d'accordo, però mi pare che il presidente Cairo, che ne ha sbagliate un sacco in questa stagione, sia esente da colpe, anzi forse è stata la sua migliore stagione pure, no? Almeno di quelle in Serie A, e vado così a memoria. Strade, poi torniamo con altre voci, altri ascoltatori, con i gol della settimana fino ai saluti finali, a dopo. L'importante è guarire bene e tornare insieme ai miei compagni, che è la cosa che in questo momento voglio di più. Tutti convocati. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, siete convocati ogni giorno da me su Radio 24 per parlare di ogni sport. Stefano Fermo, buongiorno. Buongiorno a te. Voglio i messaggi, voglio gli sms in bocca al lupo a Xavier Zanetti, voglio i vostri pensieri su Xavier Zanetti, poi li pubblichiamo. Stefano, dica. Assolutamente concordo per un saluto a Zanetti, al di là della maglia che indossa. Niente, io volevo argomentare un attimo sulla situazione Milan, Berlusconi, Allegri. Mi permetto di dire che a volte nel calcio, come in altre situazioni della vita, si dicono cose e il giorno dopo lo si smentiscono, e soprattutto nel calcio, che non è scienza esatta, viene spesso e volentieri smentito tutto e di più, a tal punto che io in dialetto marchigiano ho coniato una frase: la politica lo ballo fa diventare bucciar delle persone. Non so se perché si smentisce. Allora, diciamo che Allegri ha operato abbastanza bene, ma no, non è che non avesse poi di fatto una squadra assolutamente scarsa e non qualificata. Ricordiamoci che quest'anno sta arrivando forse terzo, ma l'anno scorso ha perso un campionato con Ibrahimovic e Thiago Silva a 7 punti di vantaggio dalla Juventus. Sì. E quindi, cioè, voglio dire, Allegri è un buon allenatore, secondo me non sa leggere la partita, non sa modificare la squadra in corsa. Con la Fiorentina 10 contro 11 Montella ha fatto due cambi, ha spostato Quadrato a sinistra, ha messo un altro centrocampista al secondo tempo. Io al di là, Stefano, Milan non è esistito. E Stefano, con la Fiorentina il Milan ha buttato la partita, però io guardo il quadro complessivo delle tre stagioni di Allegri, arriva scudetto. Quando non tutti la pensavano così, quando c'era ancora la grana di Ronaldinho, prima che arrivasse Ibrahimovic, poi è arrivato Ibrahimovic, scudetto. L'anno scorso la stagione peggiore di Allegri e del Milan, perché era favorita, però si è arresa ad una Juventus che aveva più garra e più fame. In questa stagione Allegri, a mio parere, più di quello che ha fatto non poteva fare, e io molte volte l'ho criticato, molte volte ho detto, soprattutto all'inizio, dovrebbe adattare il suo gioco alla pochezza della rosa che ha a disposizione. Secondo me è stato molto bravo in questa stagione, forse la sua migliore stagione al Milan. Il problema è che, come ho detto prima, la proprietà ha deciso di cambiarlo e lo cambierà, soltanto che secondo me in questo momento non esiste un pretesto. Potrebbe esistere nel caso in cui non arrivasse terzo, ma io penso che alla fine questo risultato verrà centrato. È un grande risultato per questo Milan spogliato di, al di là, Ibrahimovic, Thiago Silva, della colonna vertebrale degli anziani, quindi servirà un altro pretesto per cambiare un allenatore che ha fatto bene. Andiamo con i gol della giornata, chiudiamo poi con gli ascoltatori. Pizarro, pure il cambio di gioco verso Cuadrado, ci prova Cuadrado, splendido gol di Cuadrado e la Fiorentina in vantaggio, un siluro, un missile di Cuadrado. Caceres, Marchisio, fallo di mano, si gioca per il vantaggio, Vidal, Arturo, Vidal, Lorenzi, sponda per Totti di Osvaldo, palla dentro per la Mela, il ballo da sinistra, la Mela, da impazzire la Mela, 2-0 al sedicesimo, che giocatore, il capo la Mela, che giocatore. Giocatore altro che la Mela, una delle grandi rivelazioni, delle grandi stelle, io credo, del nostro campionato. Vincenzo Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie di essere stato convocato. Io ora per il derby, adesso va bene, la Juve comunque è forte, non lo metto in dubbio, però questi regalini che gli fanno ogni tanto, voglio dire, lo so, capito, uno non ci pensa, però sullo 0-0, se la trattenuta del difensore juventino su Jonatas Bonucci, quello era un rigore grosso come una casa. Sì. Indipendentemente dal fatto, visto che non hanno fischiato il fuorigioco, che era millimetrico, a quel punto lì, dai rigore, la partita magari la perdiamo lo stesso, perché magari la perdiamo lo stesso, però secondo me, non lo so, è solo per, avevo chiamato solo per questo. No, ma ha ragione nell'esprimere la sua rabbia. Insomma, ieri era una partita da 0-0. Ripeto, il Toro è stato impallinato quando il trattato di pace per questo risultato di pareggio, che infine andava bene ad entrambe, era già steso e pronto per essere firmato, ma le grandi squadre sono ciniche, sono così. Poi è vero che la Juventus ha avuto un paio di colpi di infortuna arbitrali, soprattutto per quella trattenuta su Bonucci, che vista non so, ora non ricordo come fosse messo l'arbitro, però quell'inutile o grosso modo inutile personaggio che si muove lungo la linea di fondo, la trattenuta avrebbe potuto pure vederla. Savino, Milano, buongiorno. Buongiorno, signor Genga. Dica. Grazie per la convocazione. Presenti. Volevo commentare una dichiarazione di Beckenbauer. Ho visto una mezz'ora fa, c'è una trasmissione sportiva in televisione. Sì. Ha detto che il Barcellona giocherà sicuramente sporco. Giocherà sporco. Perché non avendo niente da perdere. Io il Barcellona che gioca sporco, io il Barcellona, fosse Real Madrid, Mourinho ha detto che non è ancora finita, che devono segnare subito, eccetera, eccetera. Invece, credi in rimonta, ma con un gol subito, Mourinho, bah, sì, sono parole. Beckenbauer, secondo me, ha perso un'altra occasione per stare zitto, perché io il Barcellona che gioca sporco, in tutta sincerità, e nemmeno nelle fantasie più perverse ce lo vedo. Il Barcellona non è l'esatto opposto di una squadra in grado di giocare sporco, e queste cose non si inventano. Quindi mi sembra una sciocchezza quella di Beckenbauer. Antonio, Alessandria. Sì, buongiorno Genta. Buongiorno. Grazie per avermi chiamato. In particolar modo oggi io sono tifoso interista. Sì. Per un pensiero al capitano di cui non ho più aggettivi, non ho più parole, se non grande rispetto, veramente. Però io credo che tante volte si chiude una porta e si apre un portone. Vorrei suggerire a Moratti, ammesso che fosse possibile, di proporre a Zanetti di fare l'allenatore il prossimo anno, e forse, chissà, potrebbe essere un nuovo corso che si apre in maniera del tutto inaspettata, innovativa. La sorte ha voluto. Quindi lei lei si immagina una Milano con le panchine occupate da due giocatori molto diversi, con storie molto diverse e anche caratteri molto diversi, che allenatori non sono. Da una parte Zanetti, che non è un allenatore, no, è un giocatore di calcio. Dall'altra parte Seedorf, che sta ancora giocando in Brasile e che non è un allenatore di calcio. Forse sarebbe anche suggestivo. Sì. Sarebbe anche suggestivo, però io credo anche che allenatori di pallone non sia difficile inventarsi, anche se vale tutto, se ogni cosa vale, può essere attuata. Insomma, Zanetti potrebbe diventare, certamente diventerà, se ne avrà voglia, un grande allenatore di calcio. Ora io non so se subito, ora alla guida dell'Inter e da capo allenatore. Vediamo come va a finire questa storia. Intanto mi piacerebbe rivederlo in campo ancora una volta, anche se sarebbe, insomma, la festa di Zanetti e della tristezza, secondo me. Massimo, Milano. Sì, buongiorno Genta. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo parlare una domanda sul basket, sì, se posso. Ma volentieri. Volevo chiederle se anche secondo lei non è un peccato che il probabile accoppiamento futuro sia Milano-Siena. No, non è un peccato. No, secondo me sarebbe divertente. Sarebbe divertente perché con serie troppo lunghe come sono quelle che vedremo nei playoff, meglio, in maniera un po' perversa, un po' così intrigante, mettere una contro l'altra subito, fuori una, le due squadre più profonde, e quindi quelle che possono rappresentare un rischio per chi vuol fare il botto grosso nei playoff. Con serie al meglio delle 7 partite, la profondità di Siena e di Milano è una differenza importante. Mettiamole subito una contro l'altra, una se ne va e l'altra se la gioca contro tutte, quindi mi sembra una cosa interessante, ma ripeto, sto parlando da voyeur, sto parlando non da tifoso, da appassionato, semplicemente in maniera un po' sarcastica di questo argomento. Raul Massa. Sì, mi sente? Sì. Sì, buongiorno. No, la mia era solo una battuta. Parlava prima dell'allenatore del Milan Allegri, che probabilmente sarà sostituito. Sì. Sono d'accordo con lei sulle qualità di Allegri, e siccome lei parlava di un pretesto, suggerivo alla società di chiedere al Bayern quale pretesto avesse usato per sostituire un allenatore che sta vincendo il campionato tedesco ed è quasi in finale in Coppa Campioni. Sì, e pensi se la vince, grande allenatore anche se pensi se la vince e poi la consegna a Guardiola. Beh, c'è da dire che il Bayern di Monaco è andato a prendere l'allenatore top del mondo, quindi il pretesto può essere quello: io prendo il numero uno perché voglio così cambiare anche il mio modo di vivere e vedere le cose, quindi lì non serviva un grande pretesto per prendere Guardiola. Ripeto, sarebbe molto interessante vedere anche che gli consegna quella coppa, che gli consegna lo scudetto e che gli dice: ragazzo, adesso fai meglio. Io vi devo salutare, Laura Vanossi, grazie per il lavoro in redazione, e Roberto Scaltritti in regia. Vi invito ancora a mandare messaggi di in bocca al lupo a Xavier Zanetti. Ci sentiamo domani alle 2 con tutti i convocati. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Adesso devo andare a cercarla nei prati. Il più ricco di un re. Intorno a te, contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.